sempre di un bel film. La trama però a me sembra la stessa, sì lo so. Portare una festa, tutti ballano, ma non si accorgono che da un pezzo per me si è fermata l'orchestra, sì lo so. Ti ridono, ma ridono di te, se ridono di me.